Le gambe di Nocchi. Buonasera. Non si è sentito, avanti. Ehi, cosa c'è? Ui, Claudio, buonasera. Che sana siete. Sempre mi conosci, eh? Ciao, Anto, buonasera, ben ascoltato. Ben ascoltato anche a te, già eravamo se senti indici. Buonasera a todos! Gianni, mi. Ehi, già sto entrando qualche sera, così mi ha fatto chiacchiere con Gianni. Giusto per far scaldare questa cimbrana. E allora, ciao Gianni, avanti. Dai, vi sto ascoltando, che sto facendo pulizia a casa, però vi ascolto, vai. Sono andato a salutarvi, e basta. In questo momento sto spazzando in terra. Va bene, fate sentire dopo finisci di spazzare, avanti Antu. Capo, ok, già, poi qua non c'è problema. Allora, Claudio, dai, non ho di senso in disica. Ragazzi, non arrivo abbastanza forte qua, Ehi, anche tu non scherzi, Antu. Ehi, l'antenna è bassa la mia, non ho più curato niente, se poi mi decido di riprendere al 100%, già solleviamo l'antenna, ci facciamo sentire meglio, ma in linea di massima già va bene, dai. La radio è sempre la stessa, quindi non cambia nulla. Ma è già non credo che andava bene, si cazzo di quasi 9.25 in occhi, a voglia. Noi siamo anche aperti, Io e tu, nonostante l'antenna sia bassa, ma non sei distante, capito? Sì, anche Gianni arriva molto bene qua. Arrivate tutti bene, non c'è problema. Già va bene per fare due chiacchiere, a voglia, avanza, buru. Te l'avevo detto, sì, cosa avevo messo? Avevo messo la 5 tappi, la GPS dell'Attilio, che si assomiglia a tipo, come si dice, si assomiglia a quella della Misa, a quelli che abbiamo un po' tutti, là, con un po' classica che sta girando adesso. Ma quella con i radiali hai messo tu? Ehi, con radiali piccolini. Radiali, come quella che c'ha Marco Condor, Pomponio, c'abbiamo un po' tutti, eh. Io non sono piccoli radiali, già vanno bene, non sono grandi come la manta, ma già vanno bene, i 926 quasi, ottimo segnale, alla grande, bene Meda. Capa, ho messo quella lì e c'ho l'antenna, ce l'abbiamo un po' tutti ce l'abbiamo, capito? Cioè, ce l'abbiamo in 2 o 3 quell'antenna lì, va bene. No, già va bene, e già l'ho vista quella di Antonello, ma sempre vivo Antonello, non è morto ancora. Sempre vivo, No, è quella è proprio, è precisa. È già una buona antenna quella, a 5 ottavi già va bene, voi già non siete molto in alto, diciamo, dai, già va bene, quando arrivi da tutte le parti, vedo di una fuga, tanto non te la mettere cose enormi, fai la stessa cosa, non c'è niente da fare. Sì, è quella lì, la stiamo utilizzando un po' tutti. C'ho già un anno, mi credete scherzando, un anno ce l'ho, ce la vivo ancora mia moglie, immaginate di tu, un anno, forse di più. Forse di più sì, io mi ricordo quando l'hai piazzata, mi ricordo, dovevo mettere antenna nuova, però non sapevo che antenna dovevi mettere. Ascolta, Gabri come sta? Bene, bene, sta giocando con le macchinette, con le motorette sta giocando. Cresce, visto, Franco di Nabisi, come si cresce? Gabriele c'ha quasi 3 anni, No, è la sua di visto, Sono più male come il babbo, Minoretto, Sì, era buio a me mano. Sarà riuscì, capito? Cose piccole, problemi piccoli. Problemi umani, problemi umani. Vabbè. Tutto K di Rosmetro. No, qua è sempre la stessa radio, sempre il K. Sempre perfettamente funzionante. Era un po' di tempo anche spenta, ma ho visto che già si è ripresa subito. E l'antenna era quella della smetta. che già va bene. Cazzo, va bene, va benissimo, va. Va benissimo. Cazzo, se va bene. Vabbè. Non stava più a carbonarsi, ma già ti intendi abbastanza voce. Arrivi benissimo. Beh, l'era aperto a 360 gradi, qua è molto più alto rispetto a Carbonazzi. Il problema mio è che per Sassari, io Sassari non lo vedo perché c'è una collinetta davanti. Se non ci fosse stata quella collinetta sarebbe stato ancora meglio. Però ti ripeto, un po' per fare due chiacchiere, per salutare quelle poche persone che sono rimaste. Ieri c'ero io Gianni Tolino, l'altro giorno c'era anche Giulio. Non ho più sentito a Marco Condo, Antonello Motopompa, però insomma già so che siete rimasti in pochi, e già va bene. L'importante ogni tanto farsi sentire. Kappa, magari già ne arriva più forte di me, non lo so, avete più o meno lo stesso segnale, mi ha messo gli occhiali, stai toccando il 2 del 20 su Kappa, quindi il segnale è abbastanza preciso, non lo so, Gianni a volte usa il Magnum, c'ha più watt, quindi magari arriva un po' più forte di te, ma a parità di potenza penso che siete lì, non è che ci siano molte differenze. Sì, ma vabbè, siamo lì, no? Non c'è molta differenza. Kappa. Vabbè. Macchina in officina. Buonasera. Buonasera a lei. Onda, Kawasaki, no, Kawasaki è meglio, più veloce. Ciao Tony, buonasera. Ira, sapete. La mia è già entrata 4 volte d'ora che stanno, per carità. Il cuscinetto, quello e quell'altro, mi sembra che fatta la turbina, l'ho fatta mettere nuovo, ma patrimonio sempre ci vuole quando le macchine entrano in officina. Va bene, avanti Tony. Ciao Claudio, ciao Antonio da Procatore. Non ti sentivo più, ripetato. Cazzo, invece non me l'ha fatta, vabbè, pazienza, io da voi va. Adesso per andare a lavoro uso la moto, mi arrangio con quella. Il problema è buttare un bicino, è un casino, capito? Purtroppo, ma è che non c'avevo tempo, sono incasinato, se non me l'avevo mai già detto la macchina. Perdevo un po' di acqua, sicuramente era fatto di fusione lì dentro. Ogni rottura di palle qua. Fatemi un po', Tony, tu sei elettricista, fare qualche collegamento diretto, in modo che quando mette moto si accendono le luci. Che problemi c'è, Antonio? Non lo so, che difetto c'è, Antonio? Perde acqua. E allora è roba elettrica, no? È roba idrica. No, il tappo di fusione. Il fuoco elettronica va la macchina mia. È un appunto. Se ti perdi acqua vuol dire che avrai il radiatore, qualche cosa che o la pompa è là, o qualche cosa avrà. Sì, è verso quella direzione la perdita. È che non avevo tempo, se no me l'avrei guardata io, già sono abile a fare le cose. È che sto sempre incasinato quel lavoro, mamma mia. Oggi mi sono a casa per miracolo. Guarda, qualche manicomio. La tesseria ci viene a pompa. Avanti qua. Non è tanto sempre lì con il motocarro, sì. No, non faccio più quel lavoro di bomboli, io ho finito, faccio il tecnico adesso. Sto facendo lavoro per la Senocist. Un po' di tempo ho lavorato con Rockout, facevo audio, luci, più che altro facevo l'audio io. Quel lavoro che fa Gavino. Seguivo l'azienda, seguivo i Berta, cioè facevo anche grandi live, facevamo. Faccio questi lavori, adesso mi sono messo a fare palchi, trasenne, antipanico, tantissime cose, capito? Bene, bene, importante ce lo sapete, la bui. Qualsiasi cosa è buona, vai Tony. È importante che ci lavora. Quindi ha messo la pensione a riposo e poi ci lavora lo stesso. Bisogna sempre rimanere agili, diciamo, sempre svegli, corpo sempre in movimento, incassi, stai bene di fisicamente, stai bene in tutto, quindi se ti fermi sei morto, ma in tante cose sei morto. È come una casa abbandonata, prima o poi le fare la capitura, ma quando è abbandonata è così dopo me. Se si ferma, no, comincia a lanciarti, non cammini più, panzone, chi da che dà, sono tanti casini e poi butta a capo. Purtroppo è così che va. No, no, no, abbiamo già parlato, dobbiamo fare, mi domani mattina io esco presto, che mi prendo il caffè con il mio medico. Ci vediamo domani mattina per tre segni, prendiamo un caffettino, poi me ne rientro a casa, avvongo la dutta e vamos, mi metto a tagliare erba, a pulire tutto fuori, se no inizia pure il tempo brutto, non puoi fare niente. Tutto il resto ne ho fatto quest'estate di cose, quindi cioè, va bene così, i sportelloni sono verniciati, mi era rimasto il cancello a verniciare, però non avevo ancora deciso che colore farlo, poi è sempre nero, voglio fare grigio. Quindi stavo cercando un bel grigio, non l'ha già avuto, allora non l'ho fatto, lo farò questa primavera, già va bene lo stesso. Ma per il resto è tutto in ordine, soprattutto bisogna fare pulizia e basta. Vai Anto. Capa, e così è. Naturalmente quando guidavo la per poker, che su drone di altre ruote. Ah beh, però, già, ogni 3x2 è sempre facciata, gas. No, sì, vabbè, fu due a dire la mia manetta. Ma no, non ti credino. Vabbè, quelle macchine lì del lavoro sono un bel delicate. Vabbè, comunque, a futendini, a se delicati al tuo lavoro, poi se abbiglielo ci hai fatto, già va bene. Vai Tonino. E comunque ieri c'ho al telefono che mi hanno chiamato al telefono, infatti non è che ho seguito molto il discorso, sì, non c'è problema, lasciamo qua, non stiamo dicendo niente di particolare, si parla del più e del meno, altri cari bugatti che stanno, cazzo, fra un po' siamo a novembre, fra un po' siamo a Nadare d'oro. Un periodo un po' particolare, ma meno male che quest'anno si è scatenato un po' di lavoro, manco mare. Sì, Anto, il lavoro è quello che c'è niente da fare, è un bel attonino, è una pressione, c'è un po', sempre deve fare, i soldi non bastano mai e bisogna fare, ma a parte i soldi si fa anche per stare in movimento, capito? Si fa per stare in movimento, io qualche volta già vado a aiutare qualche amico così, ma non è che mi posso mettere, sono un po' più acciaccato rispetto a Tonino, ho un sacco di problemi alla schiena e quindi non posso fare tante cose, però insomma bisogna tenersi sempre in movimento, anche se no, come ti ha detto Tonino, cresce la pancia, ti si atrofizza tutto e non riesci più a camminare e finisce a rotelle. Vai Tonino al telefono, vai Anto. Sì, ecco via. Ma come dei lavori, cioè, purtroppo io invece gli ho dovuti, io già per posto, ma gli ho dovuti un po' di sfida, un po' di lavori perché lavora con la notte, capito? Allora mi sono dovuto cercare un lavoro che almeno lavori di giorno, poi ho capitato qualche giorno di lavorare anche notturna, ma non più di tanto. Un casino qua. Perché no, purtroppo col bambino non ce la faccio. Sono tornato? Ehi, Anto. Io ti capisco perfettamente perché il bambino crea un sacco di impegni, soprattutto così a 3 anni, vi seguirlo, vi stare attento se faccia male, tante cose ci sono. Però alla fin fine dai, già va bene, vai Tonino. E qualche uno che te lo mantiene, no? Non ce l'hai a tu, qualche parente, oppure l'asilo mattina sera. cioè giustamente il lavoro deve lavorare, perché se devi mantenere tuo figlio, quindi giustamente è un casino, perché è un casino, non so come lo posso immaginare, perché io conosco un'altra persona che più o meno ha gli stessi panni tuoi, la moglie è morta e quindi è un casino, e quindi un po' dalla sorella, un po' dalla mamma, e lui va a lavorare ed è sacrificato poverino, e purtroppo le cose sono andate così, uno si deve un po' arrangiare, perché non puoi dire no, fate come figlio e non va a lavorare, grazie, come te vai a mantenere, è un casino, purtroppo è così. A tu, la mia cognata l'ho porto da mia cognata, è l'unica che me lo sta tenendo, è l'unica che me lo sta tenendo un po', me la trovo oggi, o già, invece no, vabbè, ha detto, pazienza, devo lavorare lo stesso, devo fare questa azienda, e invece poi, vabbè, ce la fanno già, e ho detto, va bene, dai, sono questa azienda la te do il cibo, ho detto, va bene, dai, ho chiamato a Gesuino, ho chiamato, mi ha detto, no, già ancora, abbiamo già fatto, ma qui a dire il culo. Io ho chiamato la disponibilità però da un bel po' di tempo. E allora vabbè, vado a vedere lo spettacolo e lui va a trovare gli amici. Vabbè, almeno tu credi, con la mano di là, dai. E purtroppo è stato l'accento, purtroppo succede questo. E quindi ce l'ho fatto, vedi tu. Certo che mi saluto, vedi, ma la donna in casa, fate per il bambino, tu andai a lavorare tranquillamente, questi problemi non ce l'avevi. La vita è così, continua, tutto qua. Avanti, grazie. Ma infatti la vita continua, dai. L'importante è che sia rimasto il bambino tranquillo e sereno, e ci vuole il bambino, è andata così, purtroppo, dopo il vannuda, la vita porta anche queste cose, e vabbè, pazienza, riprende Anton, secondo che mi sta chiamando mia moglie. Ecco, poi cosa vuoi fare, purtroppo è successo quello che è successo, cosa posso fare? Non ci posso fare niente. Successa una tragedia, purtroppo. Se no ero stato tranquillo, io in questo periodo ero sempre in tour, sempre fuori, cioè, a lavorare. Cioè, non ha più fatto un anno che l'ho sempre desiderato di farlo a Cagliari. Il premio Andrea Parodi, cazzo, non so come mai riuscire a farlo. Perché devi stare molti giorni fuori, devi stare, perché devi lavorare al teatro. Cazzo, non sono mai riuscito a farlo, mamma mia, guarda. Come cazzo, la cosa si è spostata un attimino, te l'ha chiamato la 650. Niente, se c'è qualche concerto di Tazenda, a me piace moltissimo, perché conosco fisicamente la mano leva oltre 9 anni, infatti qua, una vita la conosco, e mi piace come gira le musiche, tutto quanto, sapendo dove sono vicino ci faccio un salto a vederli, perché mi piacciono. Sì. Io facendo a trovare gli amici, io anche ieri ho trovato gli altri amici, perché ho lavorato per tanti, capito? Ho lavorato per molti servizi io. Principalmente ho lavorato con Rockout, però ho lavorato con John R, ho lavorato con Angelino, un po' con tutti me. Quel lavoro lì l'ho fatto anch'io tantissimo tempo fa, però prima di sposarmi, fatti conto. Ero compreso mio cugino, ricordo di Angeli, Mini Bertas, che poi hanno lavorato anche con Andrea Parodi, lavorare, e io ero un tecnico, installavo tutte le casse, tutto quanto, piazza del parco, eccetera, eccetera, insomma, tutta una roba lì che però facevo. Tempi che sono passati, e quindi, niente, mi sono dedicato al mio lavoro di mestiere, è stato un lavoro che non è pesante, è solo lavoro di cervello e pazza, elettrico, tutto quanto. In effetti quella sarebbe la mia vita, Tony. Cioè, purtroppo, io vabbè, ho fatto le bombole, ma non era quello il mio mestiere. Il mio mestiere era ghiaccio, e lo so fare anche molto, molto bene. Il mestiere mio non era andare a fare il bomboraggio, ma ha sempre dato un po' di fastidio a me. Lo facevo perché non c'era altro niente, però il mio mestiere ragazzo per fare quella roba lì, capito? Tanto guarda che no, è un lavoro come tutti gli altri, guarda, perché anche il popolare ci vuole, perché ci vuole, e tu fino a poco cosa fai, non ho capito, ogni mestiere ci vuole, quindi è un lavoro pulito, è diciamo onesto e cammina a faccia alta, quindi pare che sia un lavoro brutto. Da Montero c'era il spazzino, per carità, mi figlio il spazzino negli anni 60 eccetera, e invece io un mestiere diciamo che lavoro a tutti quanti, perché non ho capito, è un lavoro dignitoso, sostituito eccetera. Chiunque lavoro, mestiere, ricordati, non bisogna avere mai vergogna, quando si lavora cammina a faccia alta, perché beato chi ce l'ha il lavoro, questo lo si è affacciato, anche io conosco molte persone, e a tu, che sono disoccupati, non lascia per il lavaggio, che un bel po' già sono persone che non cercano lavoro, a tutti i diti, perché se lo faccio il lavoro, già la ciappa, qualsiasi cosa, tutto qua. Claudio, si è ritratto. E si conferma, sono qua, eia. Un tempo si chiamava spazzino, adesso si chiamano operatori ecologici e stanno veramente bene, sono pagati veramente bene, fanno degli orari un po' particolari, ma comunque non è più come te prima. Tanto ogni lavoro, come ti ha detto Tonino, è dignità, capito? Quando uno ha la dignità e al lavoro e porta lo stipendio a casa, problemi non ve ne può fare qualsiasi tipo di cosa, capito mi hai? Ma guarda, io lavoro potrei lavorare quasi ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno se voglio. Purtroppo questa cosa che mi si sta bloccando, perché ripeto, io ho i contatti di tutti i service, cioè, posso, a me io, domani sto lavorando, domani dove siamo, a cosa? L'ultima che ho fatto adesso con John R, l'avevo fatta bortigiata l'ultima serata. Poi mi sono un po' bloccato, ma chi mi ha richiamato ha detto non posso perché sto lavorando con quello là, sto lavorando con Titti, con la Cenosit, e quindi c'ho lavoro qui, cioè se voglio io, cioè, perché quando uno è conosciuto, noi mandrone, un po' di niente, il disegno si acciappa della base, non è così, quando tu sei una persona conosciuta, sei una persona onesta, una persona brava, la persona ti chiama a lavorare. E ti dico pure una cosa, che io quando era vivo la buon'anima ti ho visto pure di là, un bel, perché facevo un mese di fila pure, sempre andendo, ed erano 100 euro al giorno erano, e pensa tu un mese di lavoro che anche di là sono 100-120 euro al giorno. Per carità, io un altro già me ricordo, ma avevo toppare. Quanti sacrifici hai fatto, eccetera, purtroppo è così, e poi, vedi, arrivano le mazzate, le robe, pazienza, importante che si tiri avanti, poi, cosa vuoi fare, è così, e boh, vai Tony. Io lo stesso, quando mi cambio di lavoro, non mi pare vero, a volte ce n'hai lavoro tutto il mese, a volte ce ne hai una o due settimane, a volte niente, rimane qualche mese fermo, poi riprendi, ma comunque, quello che lavoro mi rifaccio di un bel, perché il mio lavoro già lo sai che è caro, quando io faccio 500 euro in meno, tu pensa con la ditta piglia tozzo, più ti mette l'IVA, ti mette quello, quell'altro, fattura che più mangia lo Stato, insomma comincia a rifarmi anche 25-700 euro, lì si fanno tu, quindi io ci sto bene perché costa quel lavoro lì, vabbè. Niente, mi sono fatto un bel mestiere, diciamo, quando ero più giovane, quindi e sono fiero del mio lavoro. Diciamo soddisfatto sì e no, perché no nel senso perché uno era sera nel lavoro fisso, lo continuavo a fare anche in pensione, invece purtroppo non è così, e vabbè, non posso venire troppo nella vita, ok? No, ma non è che sei il primo e l'ultimo, io ho un sacco di ex colleghi che siamo andati in pensione assieme e praticamente stanno continuando a lavorare, perché c'è chi ha spese, le pensioni sono quelli che sono, non è che le pensioni siano miliardi, quindi, capito? Allora, più soddiantano è meglio è. Io siamo io e mia moglie, quindi no, non ci sono problemi. Si tira a campà, insomma. Non è che vivi, che sei ricco, ma comunque quando vivi dignitosamente a me non me ne fotti nulla, no? Basta che non manchi niente. Tutto qua. È così, purtroppo è così. Poi se uno, ti ripeto, c'ha la voglia soprattutto, ma anche la, il fisico per poter continuare a farlo, lo fai. Io proprio quest'anno mi avevano chiamato quest'estate da maggio a settembre a gestire un depuratore piccolino in un campeggio, non dico qual è, ma ho detto di no perché intanto ero sicuro che non ce la facevo per mille motivi, capito? Non ce la facevo per mille motivi e quindi ho rinunciato. Se avessi avuto più forza come avevo prima, più voglia eccetera, avrei preso tranquillamente lavoro, perché gestire un depuratore per me non è un gioco a ragazzi, ma comunque avendolo fatto per 40 anni non è un problema. Poi insomma, piccoli così, con una vasca di decantazione, un sedimentatore, una cuba di fango eccetera, con due pompe trattabili si può gestire tranquillamente anche da solo. Però quando non ve la vai non ce la fai, è inutile che prendi le cose e poi fai figura di merda, proprio nel vero senso della parola, e allora è brutto. Infatti devi dare da fare, svegliati, diciamo ce la faccio. Se tu fai così, ti metti il cervello in testa che non ce la fai, poi è peggio perché peggiori, invece no, ce la devo fare, forse va la gara, capito? E vedrai che la voglia viene piano piano e ti metti in testa che lo devi fare. E vedrai che tu acquisterai molta qualità, io ti giuro, sono stato sempre ottimista in tutte le cose, non sono stato mai fermo, la verità, mi muovo a fare anche poi campagna, se c'è qualcosa non c'è niente a fare fuori, e però questa campagna invento e so ciò che facendo. Mi dici, ma cosa fai? Una mulla sì, cazzo, non si chiama per me, forse del pocaretto, no, io sono fatto così, sempre in movimento. Ciao, quando mi cuore che ho già per il fosso. Quindi, forza con la vita, Claudio, sei giovane ancora e vai avanti. Lo so, non ho avuto questo problema alla schiena, maledetta, e non puoi fare sforzi, non puoi fare sforzi. Se non ci rimani secco, io ho l'ultima era la colonna vertebrale che proprio non viene più, non posso sollevare pesi, non posso fare più niente, sono sempre in cura, adesso il 21 mi pare, c'è un'altra visita, non è né nel disco né niente, non ho più remagia, proprio alle ossa, che non ho più cartilagine nelle ossa, sia nelle due anche che nella schiena. E perciò mi crea un problema allucinante, cioè, una giornata non riesco mai a stare in piedi, capito? Fobico parecchio, è un casino, comunque, per il resto già ce la faccio piano piano, l'erba già me la taglio io da solo, le manutenzioni, quelle che so fare me le faccio, mi ho fatto tutti gli sportelloni quest'anno, mi ho fatto un sacco di cose a casa, capito? Casa di 5 anni che ci abito tutto nuovo, solo che hanno dato delle tinte di quelle stracobarato, si è tutta sfogliata, quindi ho dovuto rifare tutti gli sportelloni, tinteggiare, carteggiare, fare, vabbè, pazienza, vai Anto, riprendi. Cappa, quando uno già travagliava già male sempre, mentre muzzichisto, grazie, non ve la fai, se non ce la fai, purtroppo è quella la ragione. Ah, guarda, sinceramente, il lavoro, ripeto, non è che sia molto, perché c'è anche crisi, molte persone non è che ti chiamano, capito? Comunque, ritornando a Claudio, io te lo sai, sono andato su a operarmi insieme a Manuele, a me mi hanno aperto davanti, mi hanno messo la gabbietta di titanio, dietro mi hanno messo i tiranti, ho tre ferite grandi, cioè tre tagli mi hanno fatto, il centrale la prima volta che sono andato per linea del disco, poi mi hanno fatto altri due tagli destra e sinistra e mi hanno messo le viti e i tiranti per la gabbietta, perché avevo il canale che si stringeva e non potevo camminare. Ne risento un po' quando mi piego molto, però la verità mi faccio forza a continuare ad andare avanti, preparato a fare pesce, non era contenuto, vabbè, il lavoro mio non è fare pesce, eppure. E l'ho fatto, mi sono operato fuori perché sono sicuro, infatti ho detto, perché in Sardegna hanno mettito, infatti mio cugino l'hanno rovinato. Vabbè, già sta bene, la comune cammina via, faria un zoppica, adesso grazie a Dio è tutto cambiato. Ok, avanti qua. È così. Lo so, ma io non c'ho problemi al disco, io non ho nessuna operazione da fare, proprio si sono consumate le cartilagini delle due anche, dell'ultimo anello della colonna vertebrale, che è quello il più pericoloso, tutto lì. Però ti ripeto, sono giornate, soprattutto quando cambia il tempo, è proprio in questo periodo che io sto un bel male, capito? Sempre una di schiena, mi fanno male tutte e due le gambe, quindi via integratori, non prendo grandi pastiglie, ne prendo una solo, una volta al mese prendo il cortisone e basta. È così, e vabbè, comunque, si tira a campare, certo che se ti abbatti ancora di più e ancora peggio, allora bisogna tirare avanti la matracca, vero tu? Già non credo, già. Purtroppo è così, se vuoi andare avanti, bisogna tirare avanti. Va bene, dai, io vi saluto, che adesso devo preparare da mangiare, devo fare la reazione Gabriele. Mi ha fatto piacere risentirvi, cavolo, è da molto tempo che non sentivo più, vabbè, ero sempre fuori e cosa. Ok, dai, ce la risentiamo alla prossimina, ciao a tutti. Avanti il break. Ciao Bruno, ben sentito, compagnia di Claudio e Antonio che sta facendo un corretti. Ciao Antonio, salutoni, ci sentiamo, alle prossime, e quando puoi, entra più spesso. Tutto qua, avanti qua. Ciao Bruno, ciao a tutti. Ciao Anto, alle prossime. Ci sentiamo, dai, già ci sentiamo, intanto già sono qua, ogni tanto già entro. Ciao Bruno Ragano, avanti. Difficoltà, Tony, a sentire a Bruno, c'ho splatter dal canale 11, chicca americano, me ammazzendi, poi Bruno c'ha la voce molto, molto, molto bassa, riprendi Tony. Sì, è fortissimo il canale 11, quello americano, è un bel forte, infatti, splatter a massa, chissà quanto cavolo sta pompando. Ebbene Bruno, come ascolti quella zona che ti vedo che il segnale passa, si alza e passa, non si è ancora arrivato alle querce. Americano e canale 11 mi ammazzendi, non è male, non dico il buon pa, ma il sugar. E non dici appena l'antenna, c'è cioè qualche possibilità di comunicare un segnale più basso? Io poco fa stavo ascoltando, cazzo, ce ne sono un paio fortissimi, ma va fa il culo. Cazzo, non dico, No, adesso sei già 9, prima eri proprio 6-7 quando ti sei mosso, c'era lo splatter a 5-6, quindi tirava un po' fastidio, capito? Adesso sei già S9, perciò problemi non ce n'è. Vai Tony. E qua arriva molto bene lo stesso Bruno, 9-10, 9-15, cazzo, dopo 4 resette. Oggi facciamo pure il capo, niente, ultimo comunque, sì, 90, ma io, qui dove sono io, Claudio, tu lo sai, quindi in quella zona sto aperto, dai. No, anche se 9-10, tranquillo, abbondante, no? Non ci sono problemi. Mi sento tutti bene, chiaramente Bruno è in macchina, quindi secondo la zona che è, arrivava bassa, ma adesso è già salito il segnale, perché anche io qua sono abbastanza aperto, c'è questa collinetta, non vedo Sassari, ma comunque sono abbastanza aperto, quindi poi sono di fronte a te, superato lì i Filigheddu, tu sei dietro, perciò siamo in linea d'aria, ci vediamo. La mia antenna è bassa, ma comunque già sei buono come segnale, Tony. Avanti Bruno. Sì, ok. No, io adesso sto facendo la macchina, con l'antenna che avevo nel poggiolo, l'ho tolta, intanto non siamo meglio dalla macchina che da casa. Lì sono tutte quelle palazzo che c'erano armate, probabilmente il segnale era rado. Devo soltanto, sto pensando di fare una cosa, c'era una volta, io sono troppo certo, non so manco si trovano più, quelle linearette piccoline da macchina, 100 watt, quelle piccoline si passavano, veramente era un po' il segnale, perché l'antenna è buona, è quell'antenna calamizzata, quella mini tubo, come cavolo si chiama, e poi niente, devo risolvere il problema del microfono, perché quello che mi hanno fissato, che mi avevano piazzato, quando lo sollevo, comincia a fare casino, sembra che ci sia un barato, una base da evasione, il bar, gatto, da casino che fa. E dunque c'è questo, anche baracchino, non è che sia, purtroppo, se toccai il garage, che sa dove cazzo ce l'ho messo, sto usando un Intec, un baracchino che così, di quelli. No, ma gli andando bene, anche se più di 9, non c'è problema. Un 747, mi pare che ce ne sia qualcuno che ho visto l'altro giorno, non stava dicendo un amico, mi pare che ce l'aveva, un 40-50 euro, una cosa del genere. Un 747 ti devi prendere, non ti distorce la modulazione, cioè i suoi 60-70 watt, e va di lusso per la macchina, è il migliore in assoluto per la macchina blu. Dove la trovo però? Io avevo chiesto una volta, avevo chiesto lì da Bugiaro, come cavolo si chiama, ma non ha più niente. Vai da Bugiaro, vai. O vai alla GBC. Un 747 alla GBC ti avete pagato il tuo euro, sino di più. Ci sono usati, chi l'ha tenuto bene, funziona bene, c'ha i suoi, adesso non mi ricordo, io ce l'ho avuto, mi dava un 60-70 watt, una cosa del genere, capito? Però è a MOSFET e quindi funzionano molto molto bene, sono i migliori in assoluto. Quelli da ZG si saturano la modulazione, sono un po' più incasinati. Un 747, se lo sento quello lì, glielo dico, se ce l'ha ancora te lo dico, ma Bugi ne vuoi 50 euro, voglio dire subito, perché erano saliti alle stelle quei lineari, te li ricordi Tonini? Sì, l'ho avuto anch'io quello lì, e io lo pilotavo con un alimentatore da 35 watt in casa, ma dirò che era una bomba, perfetto, ne ho dato un altro, glielo ho ritrovato indietro, da 100 watt a 150, l'ho dorato, sempre per macchina, però mi saturava tutto un casino, invece con il 400 quello grigio, perfetto, era un po' che ci ho pentito anche di averlo dato, vabbè, pazienza. No, 747 è il migliore perché c'è lo stadio finale a MOSFET, capito? Funzionano molto bene. No, a casa intanto non è buono Bruno, se è buono in macchina, capito? Lo tiene acceso, quanti watt va di questa radio? 5 watt, 6 watt, tu glieli puoi dare tutti, lo accende, sino a 10 watt li puoi dare a quel lineare, 8 watt, capito? E te ne tira fuori una cinquantina, lo sai come ti dà a lusignare, e anche la modulazione ti cambia, capito Bruno? Per dare appena appena più di farmi sentire, perché qualcuno magari in città qui vicino mi sente anche, però ad esempio quando parlo con Marino a Ottava oppure qualche altro amico che si trova 20-30 km, non mi sento proprio, ma qui 15-20 km ancora, ho fatto attorno un pochino per aumentare il segnale e niente, poi prima o poi dovrò decidermi, perché nell'altro garage, per quanto ho finito adesso, c'è la roba ancora da vedere, però nella garage che avevo prima, nell'altro che ho lasciato, che c'era comunque, c'era mio fratello, lì c'era un Tokai, c'era la Lafayette, quella vecchio HB23, non so se me lo ricordate, un Tokai era buono come baracchino, almeno che io lo ricordi, anche se ne ho un altro, non mi ricordo che marca è, c'ero, ogni tanto lo metto, che mi hanno detto che è uguale a Tokai, come diciamo, come elettronica, quello me l'aveva venuto la ricola poco. Il Zodiac era uguale al Tokai, gemello del Tokai, il Zodiac è 5024, è gemello del Tokai 5024, capito? Vanno molto bene quei baracchini, sì, HB23, l'HB23 io l'ho regalata a Mastro Giulio, perché mi aveva fatto le cortesie, non ha voluto niente, quindi le piaceva, l'ha volata a lui, ma guarda, toccagliela, funziona benissimo quel baracchino. E a me mi è rimasto invece l'HB525, che è uguale all'HB23, però è 40 canali. Capito? Io ne ho dei baracchini vintage, ehi, Nagio, Bari, Giri, Zio di Zucco, adesso mi ricordo, veicolare. Poi ho tutti quelli da base. Ce li ho, però il Tokai ha sempre funzionato bene, Tokai, Zodiac, l'Indec, l'FM500S, tutti i baracchini funzionano, per la macchina vanno bene, non metterla a 48, perché sì, è un baracchino eccezionale, per la macchina ma qui Dante di dieci golpi allucinanti. Vai Tony. Ma quello mi è servato una radio forte, sembra che vicino a me, veramente, complimenti Bruno, il segnale è ottimo al 100%, sui 9.15 anche un po' di più, la radio è fortissima, bella, 5 è forte, squillante, come ti arrivo la Bruno? Io ho fatto una frontata, quando ho smesso la trentina di anni fa, e ho fatto fuori tutto, perché io la roba ce l'avevo, non è che avevo l'FL50D, quella lì a Iesia, cosa era, avevo avuto tanti altri baracchini, diciamo che ne ho passate tante, anche a Rogiambo, anche, ma a quei tempi si usava col carro grosso, a casa era un casino. Mi avrei potuto sistemare, mettere in garage, un domani invece non c'era più nessuno, mi ero stufato, una cosa e l'altra, avevo dato tutto, no? Tutto a livello di regalare tutto, se no almeno il ricevitore me lo potevo tenere per casa, e invece vabbè, è andata così. Se qualcuno si potrebbe azzardare anche l'idea di fare qualche buon acquisto, ma non ne vale la pena. Vale la pena, qualcuno c'è sempre, io da 74 oggi ho sempre comprato, venduto anche un sacco di cose, però ho sempre tenuto, non mi sono mai disfatto di niente, perché così poi contore avevamo dato la patente, quindi avevamo comprato gli HF e tutte le cose, quindi c'ho la parte amatoriale e la parte CB, però quando te ne dici poi a riprendere in mano la situazione, magari ragazzi Mondezza ha capito cose vecchie che non si usano più o che non sono più efficaci nel funzionamento, invece quando c'hai sempre una radio come questa, io ho viaggio 20 anni, nei suoi anni ha sempre dimostrato di esserci, anche se l'ho tenuta ferma 2 anni, l'ho ripresa l'elettroarmadio, l'ho accesa un pochino, l'ho tenuta accesa un po' per far caricare i condensatori eccetera, un amico mi ha messo la ventolina nuova, gli ha dato una sistematina in cose che c'erano da fare, i lavori che c'erano da fare, però funzionano sempre, quando tu le tieni bene funzionano sempre, capite? Quindi riprendi tu che vado a chiamare mia mamma, che c'ha 94 anni, perché rimane a Giammada e si è dormita, adesso sono le 7:15, vado a chiamarla prima che si addormenti di nuovo, se no non la intengo manco, ci riprendi un attimo Tony. Ok, d'accordo, chiama mamma, chiama. E vabbè, io purtroppo non ce l'ho più, ma vabbè, intanto ce la faccio anch'io perché giustamente mi manca, poi c'è una fotografia di mamma, la ringrazio per il cavalletto, quindi me la guardo ogni gioco. Ok, bene. anche pochi anni fa, quando 7-8 anni fa, non è morto mio cognato, non ho avuto la prontezza di andare a casa sua, tanto c'era soltanto il figlio, non gli insegnava niente, e portarmi via qualcosa. Invece non so chi è arrivato di questi amici sui OCB o per radioamatori, ci pensa radioamatori, e si hanno portato via tutto, le antenne, tutto, quello là gli ha detto che se lo portato via tutto non me ne frega niente. Per cui se no qualcosa l'avrei tenuta di quella roba che aveva lui, e ti posso assicurare che aveva molta, molta apparecchiatura. Per cui, vabbè, e niente, le antenne. Io poi, tanti anni fa, quando ho smesso, ho avuto la direttiva, quella direttiva mi aveva piazzato pure, poi mi aveva piazzato lui sul tetto. Era una direttiva omnidirezionale, senza rotore elettronica, che servivi di affari, dirigere, disegnare dove si faceva comodo, capito? È una fissa, anziché aveva tre poli, molto bella, era molto ingombrante, però era molto efficiente, ma sai, poi a quei tempi ti stufi una serie di motivi, hai altri scopi, altre cose, ha divulgato tutto, io le antenne con la cosa ho venuto tutta la mondezza, ho tenuto per ricordo, ce l'ho sempre lì, poco fa l'ho tirata fuori, stavo per piazzare la macchina, un'antenna della macchina, se te la ricordi, quella colibri gialla, quella che era vuota con la carica che era vuota all'interno, quando me la sono tenuta e c'ero sempre un garage davanti che se ricordo là. Beh, no, andare via perché poi se ne pensi, ma è così, guarda. Niente, io ho sentito quelle storie, per carità, che ci sono i sciacalli in giro che quando ha perso l'amore va e gli pica tutto, con la scusa che lui era molto affettuoso con la persona, gli manca quella, quell'altra, gli piglia tutto. Io guarda, infatti mio figlio ha detto, ascolta, quando chiudo quello qua fa la cosa, non darlo a nessuno, o lo butti la contesta, non lo fa dire nessuno, lo butti in una qualche montagna, o il sciroppo si distrugge, ma non darlo a nessun cimì che viene con una scusa all'altra, manco a venderlo, niente, non le dare, o tu ti ricordo mio, pur passa. Per carità, ci sono questi sciacalli che tentano una persona che è anziana, grande età, poi sente male, sa per morire, comincia a frequentarlo, poi c'ha che è, capito come sono certe persone, me ne ho sentito di tutti i colori, ma a me non mi importa niente, per carità. Vabbè, anche io ne ho sentito di questa persona qua. Purtroppo mia sorella era anche una persona di una certa età che non è cattiva niente, anzi ha avuto le balle rotte tutta la vita a causa di Tore, perché? Perché lei non si è mai interessata a questa cosa, non gli fregava niente e si è dovuto subire tutta la vita il marito in quella stanza dolce, cazzo, se lo sai che Tore faceva casino, grazie a Bosa, e grazie per Cassaba, tutte queste apparecchiature, tutti questi cani elettrici, che entrava a fuori in disagama, faccia per la bomba di carri, carretti, apparecchiature, per cui quando è morto Tore, sicuramente per lei è stata un... a bucarsi di veramente, sicuramente a quanto mi hanno spiegato gente che conosceva, erano amici, sono andati e lì dalla gente portate via tutto, non è fare un dovere, infatti io al momento non ci ho neanche pensato, perché con quella roba lì non avrebbe preso nessuno, non anche per le taglie, se ricordo me l'avrei tenuta io, invece mia sorella mi ha regalato una radio che c'era lì, una radio, e un altro acceso di ricevitore, piccolino, tutto un altro acceso di radio, che non sono mai riuscito a far funzionare, deve essere qualche ricevitore di bande particolari, di radioamatori, capito? Non accende, funziona, ma non ci capisco niente, c'è un sacco di sigle, di cose. E questo apparecchietto qua, piccolino, portatile, però me lo sono tenuto io per ricordo, diciamo così. Da poco sono entrato in camera, perché oltretutto adesso è morto anche il figlio ultimamente, un mesetto fa, era rimasto Sandro, mio nipote, il figlio Vittore, e purtroppo ha un tumore, l'ho assistito fino all'ultimo momento, poi un mesetto fa è morto. era arrivato questa qualche fesseria, guardato, non c'è niente. E vabbè, e cosa vuoi fare? Guarda, io ero col dubbio, ma tempo fa, ti parlo di forse 2-3 anni fa, pure buoni. Però allora, questa persona si aveva qualche apparato che stavo cercando io in vendita. Mi sono spaventato, cosa aveva questo qua? Di tutto in più, uno sopra l'altro, pieno di polvere, ma polvere, e questi qua. Te l'ho comprato, no, questo l'ha regalato la moglie perché lui è morto, come questo affettivo, quello, quell'altro, ed è proprio lui quello che ha pizzicato roba di tutti. E piano piano si è fatto un casino in Roma. Ma chissà se funzionano ancora perché sono buttati in un punto pieno di polvere e bruppa, carità, faccio appena solo guardarli, guarda. Aspetta, che vergogna, ragazzi, uno da a fare un sciaccato quando gli ti muri, no. Guarda, è una cosa vergognosa. Ma infatti, quando tu hai un apparecchio di quelli buoni, un altro per quell'altra frequenza, un altro tre o quattro apparecchi buoni, poi basta. E inoltre che tu da due ne hai 50, ma ne hai 10 uguali di quello, 10 uguali di quello e 10 uguali di quell'altro. L'unica cosa che mi è dispiaciuto sono quegli alimentatori che aveva lui, e ultimamente mi aveva acquistato uno molto importante da tenere a casa per caricature, magari per caricare un pochettino. Quello sì, alimentatori, poi avevo fatto altre cosette, e da poco ho comprato un rosetto da un amico in frequenza, che non funziona, sono andato alla GDC per ricomprarlo e non aveva, sono andato a Fusano, non aveva uno, che non aveva nuda e voleva uno che aveva la testa e non l'aveva mai comprato. Poi diventavo qua le fesserie, tutti quei carri italiani a Tavella, allora uno scatolone pieno, ma c'è presente quei pieni, quelli vecchi, di batterie, di direzioni, ma la gente prima di a casa, i cavetti, erano mattasse, proprio, e non ho trovato niente, nulla, non ho avuto niente, infatti questi che ho messo adesso qua, ci sono un paio di PL che avevo io buttato in garage, 30-40 anni, gli altri non sono bastati, li ho comprati da Fusaro, di plastica, come appoggio appena il soldatore, si scioglie, infatti il giorno sotto l'acqua glielo detto, se ne aveva buoni, diversi, perché quelli scioglievano, ah no, ma perché lei deve appoggiare un attimo, cosa vuol dire che non è stato capace, ma cosa stai dicendo? Se lo sai, se lo devi fare scaldare, con quell'attimo glielo devi dare, e nel momento in cui lui appoggia un coso, si sposta il polo, si scioglie un coso e ti tira il soldo. E di quello non se ne trovano più. Niente, però io mi devo spostare, quindi adesso anche questo in ascolto che c'è entro, dai. Vediamo se è entrato Claudio, più o meno mi prende con Claudio. Claudio, sei entrato? C'è ogni tanto anche io, devo chiudere, è già ora del finale, ok. Va bene, dai, ci sentiamo, una ricostruzione già via. Ok, Tony, ci sentiamo, ciao. Entra più spesso, dai, gruppo, ok? Ciao, stammi bene, salutoni, ascoltoni, ci sentiamo. Ciao, cuore tanto da parte mia. Ok, io già entro qualche volta, ma non ho nessuno, bambini. Io tutte le sere chiamo. Già ci sentiamo, dai. Ho un periodo che ogni giorno stanno entrando le persone, dai, comunque. Accendo ogni giorno vedere una sera che è 6:30-7 trovi gente. Ok, perfetto. Ciao. Buona serata anche dall'ascoltone. Ciao. Ci sentiamo, ciao. Eccomi qua. Siete andati via?